In collegamento telefonico con Maria Teresia Brown di Studio Universal per parlare del documentario 7852 di Alexandre O'Philippe che sarà programmato dallo Studio Universal il 30 luglio, il 3 e il 5 agosto. Maria Teresia, ben trovata. Buonasera, grazie per questa intervista. Lo descriviamo? Sì, questo documentario documentario particolarmente importante e bello per noi per vari motivi, innanzitutto perché di suo è un documentario incredibilmente interessante dal momento che dedica un'intera ora e mezza alla mitica scena della doccia di Saiko, una scena che è impressa nella memoria forse anche delle nuove generazioni che magari neanche lo hanno mai visto in film, e dedica un'ora e mezza ad una scena di film e un po' anche trascende rispetto alla vivisezione, alla analisi diciamo puntuale di quella scena per la valenza, l'importanza non solo per la storia del cinema ma anche probabilmente per una serie di ragioni anche sociologiche piuttosto interessanti. In questo documentario è particolarmente importante perché Studio Universal è il canale del cinema classico americano, è il canale di una major, quindi per tanti anni noi diciamo ci siamo raccontati come la TV del cinema da chi fa cinema, quindi è un documentario sul movie making, ma non è un documentario per cinefili, almeno non solo, per quanto i protagonisti di questo documentario sono tante personalità più o meno note, chiaramente da Guillermo del Toro, Jamie Lee Curtis, Eli Roth, Peter Bogdanovich, Bret Easton Ellis e tanti diciamo tecnici meno noti ma importantissimi montatori, musicisti di Hollywood, allo stesso tempo raccontando una scena così iconica, così impressa nella mente di generazioni e facendole in una maniera incredibilmente interessante, è un prodotto che veramente io ho creduto quando l'ho visto molti mesi fa per la prima volta, un documento interessante per tutti, veramente per tutti. Come contorno al film va detto che Hitchcock lo ha considerato una sorta di scherzo, e questo è il primo dato. Il secondo dato è che è riuscito a superare anche gli ostacoli della censura. Sì, certo, il film ha avuto diciamo un'importanza dirompente per su tantissime tematiche, sicuramente quella l'elemento più importante, che è stato forse diciamo uno dei film che ha rotto un certo tipo di comunicazione, la visione di una donna diciamo quasi seminuda, la visione di una scena di violenza così esplicita è considerato da molti, anche nel documentario si dice, il primo film diciamo apre lo slasher, quindi un genere che poi è l'horror dove appunto cosa assolutamente inusuale, si vede una donna che soccombe ad una violenza, peraltro in un ambiente così privato come il bagno, e peraltro poi se guarderete il documentario per Hitchcock i bagni sono, sono un luogo veramente sacro, proprio l'emblema, il luogo della sacralità del privato, e quindi sì, assolutamente, è stato veramente, tra l'altro ha cambiato anche proprio un modo di fruire, guardare il cinema in sala, perché Hitchcock si raccomandò già a partire dalle proiezioni dedicate alla stampa a New York con un megafono, cioè diciamo con un messaggio registrato e attraverso un altoparlante e attraverso dei cartonati, si raccomandò di entrare in sala per tempo, era vietato entrare in ritardo e oltretutto di non fare, adesso sentirlo mi sembra veramente assurdo, evidentemente c'era l'usanza di entrare e uscire dalla sala cinematografica con molta scioltezza, e siccome appunto la scena avviene nella prima mezz'ora, lui si raccomanda, anzi vieta agli spettatori di entrare in sala in ritardo. Tra l'altro un altro elemento tra i tantissimi interessanti è che diciamo soggetto di questa violenza inaudita, mai vista in questo senso al cinema, se non diciamo non in questo modo, è la star del momento, una delle star del momento, che è Janet Leigh, quindi nessuno può pensare o presumere che Janet Leigh possa morire già nel primo terzo del film. Quindi è un film rivoluzionario, lui dice che è uno scherzo, ma ovviamente quando Hitchcock racconta, sempre grande sarcasmo, insomma, sì. Se si guarda la clip in cui lui dice questa cosa, insomma, si capisce che poi sapeva molto bene di aver attuato una provocazione incredibile, perché sì. Di provocazione si tratta, certo. In qualche modo voleva un po' scuotere un po' anche le coscienze, perché riteneva un po' anche un atteggiamento degli anglosassoni, degli americani e degli inglesi un po' troppo ingenuo rispetto anche alla situazione, al posto bellica, sì. Quindi diciamo erano anche anni abbastanza interessanti. Il film è del 60 e già a partire all'incirca dall'anno prima cominciano ad uscire dei film che sono, insomma, segnano un po' un'epoca diversa, sono un po' il sintomo di un'epoca diversa, sì. In qualche modo in quella scena della doccia esplode un po', no? Tutta la, diciamo, una carica di ribellione che era nell'aria. E infatti dalle parole dei tanti addetti ai lavori intervenuti nel documentario sentiamo quanto sia stato importante dal punto di vista soprattutto tecnico, e sia stato un film seminale, dalla scelta del bianco e nero al taglio delle inquadrature, al montaggio e alla musica. Assolutamente sì, parliamo proprio del titolo 78-52, che cos'è? Sì. Le 78 inquadrature e i 52 tagli di montaggio che questa clip, diciamo, questa scena di 3 minuti ha, diciamo, ed è un caso unico a cui si sono ispirati tantissimi artisti, ha inaugurato proprio anche un modo nuovo di fare cinema. Quindi già a partire da questo, soltanto per questa scena ci è voluta una settimana di riprese. Hitchcock era molto meticoloso, lavorava moltissimo sugli storyboard, preparava tutto in minimo dettaglio, quindi solitamente lavorava in maniera anche piuttosto rapida ed efficace. Sì. Assolutamente sì, la musica anche questa è impressa nella mente anche dei ragazzini di oggi, che appunto magari qui non lo hanno mai visto, ed è proprio il suono della suspense, il suono del pericolo imminente, il suono della violenza che sta per scatenarsi. Quindi assolutamente ci sono tra i protagonisti di questo documentario, per esempio, molti montatori di grandi film che raccontano appunto questa sequenza di tagli e ci fanno apprezzare e godere di come tutto questo lavoro meticoloso e impercettibile poi di fatto è ciò che ha reso la scena così spaventosa, così iconica. Alla proiezione stampa della critica e della stampa lo racconta Bogdanovic. Siamo forse ora abituati un po', diciamo, abituati a ben altro, ma il pubblico era un pubblico scaltro, erano critici e giornalisti cinematografici, ha urlato. Quindi l'urlo di Janet Leigh, la musica e le grida dei giornalisti devono aver creato veramente una situazione unica, incredibile. Allora, ricordiamo la programmazione su Studio Universal di 78-52 di Alexander Philippe il prossimo 30 luglio, 3 e 5 agosto. Un saluto e un ringraziamento a Maria Teresia Brown. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie e buona visione. Su Mediaset Premium alle 21:15. Arrivederci.